Wonderful, che bello questo cielo. Ma è più bello pensare al tuo seno. Il mare della costa ci accarezza i piedi, ma mi rapiscono di più i tuoi occhi, il tuo cuore, le tue mani. Wonderful, viaggiare con te al mio fianco è come attraversare il sole, abbracciare il vento. La notte è troppo corta, la tua gonna che svolazza, il tuo sorriso mi imbarazza. Siamo arrivati in bellezza. Stanno scaricando al porto i pesci appena pescati. Dai, andiamo, che i migliori dormono poco con gli occhi chiusi. Per scoprire una città non seguire i percorsi già fatti. Molto meglio lasciare il caso illuminare il tuo viso. Wonderful, amore, al mondo c'è un solo sole. Dovrebbero darti l'Oscar per la purezza del tuo amore. Wonderful, amore, al mondo c'è una sola luna. E tu, senza velo, tu sei la mia regina. Wonderful, che bello questo mare. Ma è più bello con te stare. I marinai stanno pulendo le reti e i pescherecci. Quanto sei bella in controluce. Ucci, ucci, ucci. Wonderful, viaggiare con te al mio fianco è come attraversare il sole, abbracciare il vento. La notte è troppo corta, la tua gonna che svolazza, il tuo sorriso mi imbarazza. Siamo arrivati, bellezza. Stanno scaricando al porto i pesci appena pescati. Dai, andiamo, che i migliori dormono poco con gli occhi chiusi. Per scoprire una città non seguire i percorsi già fatti. Molto meglio lasciare il caso illuminare il tuo viso. Wonderful, amore, al mondo c'è un solo sole. Dovrebbero darti l'Oscar per la purezza del tuo amore. Wonderful, amore, al mondo c'è una sola luna. E tu, senza velo, tu sei la mia regina.